Focus Economia di Sebastiano Barisoni. E 7 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo da un lato dalle nuove previsioni e stime sull'economia europea. Oggi infatti si è riunito il comitato direttivo della Banca Centrale Europea, come avete sentito tassi invariati, questo era ampiamente atteso, ahimè riviste a ribasso le prospettive di crescita per l'area euro. Nel frattempo si scopre che in Italia a frenare di più è stato il sud, quanto appunto a recessione economica, il sud Italia, e il nord ovest ha tenuto meglio, sempre diciamo con segni meno, il nord est. Ancora parleremo di alcuni settori produttivi, il calzaturiero oggi in assemblea, ma anche e soprattutto il settore alimentare, che è il secondo settore per importanza in Italia dopo il settore metalmeccanico, che l'anno scorso ha registrato, nonostante le difficoltà dell'anno 2008, ha registrato un aumento dell'export di oltre il 10%, pari a quasi 20 miliardi di euro. Quindi Banca Centrale Europea, PIL italiano, PIL europeo, settore alimentare, settore calzaturiero, nel caso specifico come approfondimenti. Poi i mercati leggermente negativi, adesso vi arriveremo per quello che ha a che fare con le varie borse. E poi ancora nella seconda parte del programma parleremo dell'aumento di capitale e delle obbligazioni Enel, il titolo aveva sofferto in queste ultime sedute, e soprattutto c'è un roadshow in corso dell'Enel per presentare i vari mercati, oggi dovrebbero essere negli Stati Uniti, l'offerta e nell'operazione, ripeto, operazione su cui il mercato era stato un po' scettico nelle prime battute. Ancora, per quello che riguarda i temi del programma, ci occuperemo anche di alcune dichiarazioni sempre sul settore industriale. E continuate a scrivere, lo dico perché stanno arrivando molte email all'indirizzo focuseconomia@radio24.it, perché in tema di credito delle imprese artigiane, piccole medie imprese e banche, perché arrivano casi oggettivamente così che ci lasciano perplessi. Poi faremo una puntata, una volta che avremo raccolto tutto il materiale che riteniamo sufficiente, una puntata apposita. Scrivessero anche i direttori di banca quando devono manifestare invece alcune difficoltà che hanno loro a concedere prestiti agli imprenditori per errori delle volte degli imprenditori, degli artigiani stessi, ci mancherebbe. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Iniziamo dalle notizie in breve che riguardano l'economia internazionale. Il petrolio oggi ha aperto in rialzo dopo un calo ieri in serata, ma restiamo sempre a 68 dollari al barile. E sono brutte notizie quelle diffuse oggi dall'OPEC, perché secondo l'OPEC il petrolio probabilmente salirà fino a 70-75 dollari al barile entro fine anno. L'OPEC raggruppa i principali paesi esportatori di petrolio, ma il 60% circa. 70-75 dollari al barile è la stima del presidente, del segretario generale dell'OPEC, El Badri. Dall'America, la produttività nei primi tre mesi dell'anno è un 1,6% di rialzo, superiore all'attesa l'andamento della produttività americana. Ancora i sussidi alla disoccupazione sono scesi a 621.000 unità come domanda, un dato sostanzialmente in linea, ma la notizia più interessante riguarda il colosso americano della distribuzione Walmart Stores, che ha annunciato che quest'anno assumerà oltre 22.000 persone. Già l'anno scorso Walmart aveva creato 33.800 posti di lavoro negli Stati Uniti. Ancora sempre per quello che riguarda le notizie in breve, la Banca Centrale Europea, ma ne parliamo tra poco, ha lasciato i tassi invariati al 1% nell'area euro. Il PIL italiano, si diceva, è diminuito più a sud e a nord-ovest che nel nord-est. Il calo nello specifico, e il dato è riferito al solo 2008, poi bisognerà vedere come va nel 2009, il calo è una media nazionale dell'1%, ma nel sud è diminuito dell'1,3%, nel nord-ovest dell'1,1%, nel nord-est dello 0,9%, e anche il centro ha fatto meglio della media, meno 0,8%. Per quello che riguarda la caduta del PIL, in questo caso europeo, perché oggi appunto la Banca Centrale ha stimato un calo complessivo del PIL intorno al 2,5% nei primi tre mesi dell'anno, ripeto, ne parleremo ampiamente, su questo è intervenuta oggi anche la Presidente Confindustria Emma Marcegaglia, che ha detto: beh, la revisione ulteriore al ribasso della Banca Centrale Europea è la dimostrazione che la crisi è pesante. L'ho detto al microfono del nostro Luigi Capuano e a margine di un convegno sulla sicurezza sul lavoro in Asso Lombarda. Nonostante si possa vedere qualche lievissimo segno di miglioramento ultimamente, quindi non nel trimestre ma più che altro in termini di aspettative, insomma, la crisi è molto pesante, la crisi peggiore dal dopoguerra, sarà lungo uscirne, ci saranno molte difficoltà, è molto importante mantenere la coesione sociale, quindi noi vediamo positivamente il fatto che finalmente la Commissione europea abbia deciso di stanziare questi 19 miliardi del Fondo Sociale Europeo proprio per mantenere i posti di lavoro, supportare e finanziare la formazione. È importante che questa attenzione dell'Europa e della Commissione europea su questo tema rimanga, non solo nel momento in cui si rinnova la Commissione europea, il Presidente della Commissione europea, ma rimanga, perché questo sarà il vero grande tema, la coesione sociale e il mantenimento dei posti di lavoro. Così la Presidente di Confindustria, ripeto, tratteremo il tema tra pochi minuti. Vorrei intanto concentrarmi, visto che l'Europa, la Banca Centrale Europea conferma un calo del PIL più significativo delle stime precedenti, su alcuni settori industriali. In primo luogo l'industria delle calzature, perché oggi nel corso dell'Assemblea Generale dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Calzaturifici Italiani, è emerso come in Italia noi siamo il primo produttore di scarpe, di calzature in Europa, e l'ottavo al mondo con 6.500 aziende, in realtà sono 28.000 le imprese se si considera tutta la filiera, nella filiera è con quasi 90.000 addetti. Ebbene, l'anno è difficile, meno 7% gli ordinativi per il mondo delle calzature, produzione industriale che è scesa del 12% in quantità e del 10% in valore. Ma sempre oggi si è tenuta anche un'altra assemblea di un altro settore cruciale per il Made in Italy, mi riferisco al settore alimentare italiano. Ci colleghiamo allora con Daniele Rossi, direttore generale di Federalimentare. Buonasera. Buonasera. Voi rappresentate il maggior numero di aziende alimentari di questo paese, un settore, quello alimentare, che è il secondo settore produttivo italiano dopo la metalmeccanica. Esatto. Con un fatturato di 120 miliardi di euro, in crescita del quasi 6% l'anno scorso sul 2007. Stiamo parlando di 400.000 addetti e 6.500 tra piccole e grandi aziende. Allora, voi avete avuto un buon anno anche nel 2008, l'export è cresciuto del 10%, pari a quasi 20 miliardi, e il saldo export-import resta positivo nel 2008 per quasi 3 miliardi e mezzo. Quindi un bel contributo alla nostra bilancia commerciale, sostanziale tenuta anche nei primi tre mesi del 2009. Questa è veramente una notizia positiva, nel senso che voi avete avuto un calo della produzione del 4%, però ricordo che in media la produzione industriale italiana è calata del 20%. Quali sono le vostre attese per la seconda metà del 2009 e quando intravedete una ripresa per quello che riguarda la dinamica del settore alimentare? Noi vediamo molto interessante un fenomeno di tenuta dei consumi nel nostro paese, e vediamo anche una leggera luce in fondo al tunnel anche nei paesi di destinazione del nostro Made in Italy alimentare. Io penso agli Stati Uniti d'America, al Regno Unito, alla Francia, alla Germania, sono i principali mercati di destino del nostro export. Effettivamente la ripresa vera e propria, cioè quello che consentirà di riprendere effettivamente tutti i processi economici del nostro settore, la vediamo nella seconda metà del 2010. Quindi prevediamo un andamento un po' riflessivo per il 2009, un primo semestre ancora un po' difficile nel 2010, il secondo semestre una ripresa più consistente. Ma di quale calo nella produzione alimentare o quale calo nella produzione alimentare vi accontentereste? Noi attualmente abbiamo registrato in questi primi mesi un calo del 4% a fronte di un settore industriale nel complesso che è calato di oltre il 20%. Noi pensiamo di stabilizzare questo calo nell'arco dell'anno e pensiamo di meno 3, meno 4% nell'arco dell'anno. Però questo soprattutto per la difficile tenuta della domanda estera, perché all'estero effettivamente soffrono ancora di più di noi. La crisi finanziaria e anche c'è un aspetto psicologico per cui i consumi vengono tagliati, soprattutto i consumi di tipo più elitario che sono rappresentati dall'eccellenza del Made in Italy alimentare all'estero. E quindi i consumi interni paradossalmente dovrebbero reggere nel caso vostro e la difficoltà è più dovuta ai consumi e alla domanda estera, anche perché, domanda estera, come ricordavamo l'anno scorso, avete esportato complessivamente generi alimentari Made in Italy per quasi 20 miliardi. Sì, è stato di un euro. Record, un record. Un record, più 10%. Passiamo a un tema delicato, vedo già alcuni messaggi al 349-238-6666 e mi riferisco ai consumi interni e al rapporto prezzi-consumi. Perché? Perché nel 2008 comunque la voce alimentare, quella che ha avuto nel paniere dell'Istat sull'inflazione i rincari più alti, l'aumento medio l'anno scorso rispetto al 2007 è stato di quasi il 6% con un'inflazione intorno al 2%, più 5,8%. Quest'anno c'è un leggero rallentamento nella dinamica dei prezzi, ma abbiamo un'inflazione che di fatto è a zero. C'è chi dice se ci sono delle difficoltà nei consumi di generi alimentari dovuto anche a questa continua crescita dei prezzi. Questo è assolutamente falso perché i prezzi sono aumentati del 5% l'anno scorso medio per l'aumento delle materie prime alimentari, come tutti sanno, che è partito dal 2007 con questi fenomeni speculativi e si è esteso su tutti i cereali e il latte del 2008. Quindi le aziende non potevano ovviamente con politiche di stock, con politiche di efficienza, recuperare aumenti del 100, 120, 130% sulle materie prime. È vero anche che negli ultimi tre mesi i prezzi sono addirittura crollati, meno 4,5%, come ha riconosciuto anche il ministro Scajola questa mattina in assemblea. Quindi la nostra impressione è che il consumatore in realtà non viva un'oscillazione dei prezzi così drammatica, non si parla qui del petrolio, si parla di solo alcuni prodotti nel paniere, ovviamente quelli legati ai derivati del latte e ai cereali. E la nostra impressione, addirittura dai dati che abbiamo recentemente, è che i consumi tengano proprio perché il consumatore mantiene il profilo di consumo che aveva in passato, il consumatore italiano. Questo vale un po' meno per l'estero. Sì, diciamo che sappiamo che prima di rinunciare ai consumi alimentari e delle volte anche a certi consumi che riguardano la ristorazione, occorre che veramente uno sia in difficoltà economica, si tende a posticipare scelte d'acquisto, per esempio su beni durevoli, dal bianco, dal frigorifero, alla lavatrice, all'automobile. Sì. Però questo non vuol dire che, diciamo, siccome tengono i consumi, i prezzi non siano aumentati, è che rinunciare a un genere alimentare, anche perché l'importo lì per lì sembra essere modesto rispetto a un bene durevole, è più difficile psicologicamente. Voi però avete, se ho ben capito, oggi presentato anche dei dati in cui sembrerebbe comunque un consumatore, uscirne un consumatore ancora orientato verso la qualità? Guardi, i tre motivi d'acquisto per un consumatore oggi, secondo l'indagine che ha presentato questa mattina GPF, sono tre appunto, e il primo rimane quello della marca, cioè la scelta prevalente del consumatore, la motivazione d'acquisto principale del consumatore è la marca. Il secondo è il livello qualitativo, quindi l'etichetta e la composizione del prodotto, e il terzo, rimane per fortuna il terzo, è il prezzo. Ovviamente l'industria si sta dando molto da fare nel cercare attraverso le promozioni, il sottocosto, unicamente con la grande distribuzione cercando di sostenere i consumi, però è pure vero che sotto un certo livello di prezzo non si può scendere nei prodotti alimentari perché rischia di penalizzare la nostra qualità. Cioè, noi ci caratterizziamo per dei prodotti, diciamo, di eccellenza con qualità molto distintiva rispetto a prodotti per esempio francesi, tedeschi o inglesi, e noi non possiamo più di tanto rinunciare a quegli standard qualitativi. No, questo non lo vuole nessuno. Delle volte sospetto, come nella catena dell'ortofrutta, che anche nella catena alimentare ci sia una filiera molto lunga, quindi numerosi passaggi poi portino a continui incrementi di prezzo tra il costo, diciamo, iniziale, anche quando è un costo industriale dell'industria alimentare, e il costo finale che paghiamo noi consumatori. Questo è vero per i prodotti freschi. Per i prodotti industriali, i prodotti confezionati, è meno vero, anche perché forse i consumatori non sanno che circa metà del prezzo del prodotto sullo scaffale viene trattenuto dai servizi e dalla grande distribuzione. Cioè, il momento produttivo, quindi il mondo agricolo e il mondo industriale, esprimono in termini di valore, di catena del valore, il 50% del prezzo del prodotto finale. L'altro 50% rimane alla distribuzione moderna e quella tradizionale. Tra l'altro, di quel 50%, un buon 20% va al mondo agricolo, 15-20% a seconda dei prodotti, e l'altro 30% va alla trasformazione industriale. Quindi anche la parte agricola può lamentare effettivamente che dalla produzione allo scaffale al consumatore si passa dal 20% dei costi di produzione al 100% del consumatore finale. Quindi per il fresco vale ancora di più, per il trasformato ci fermiamo al 50%. Altro aspetto che avete preso in considerazione nella relazione annuale di oggi, e mi riferisco a un danno che il settore subisce, e lo subisce non solo il settore, devo dire anche l'immagine italiana, che è ancora più un elemento ancora più delicato. I prodotti alimentari sono oggetto, assieme ad altri prodotti del Made in Italy, ma più di altri settori, di contraffazione da un lato e imitazione dall'altro. Allora, complessivamente il danno è stimato in 50 miliardi, che significa più di due volte quanto avete esportato l'anno scorso, 50 miliardi all'anno, di cui, se ho ben capito, 4 miliardi di euro di danno dalla contraffazione vera e propria, quando tu metti un marchio falso sul prodotto alimentare. Sì. Ma gli altri 46 miliardi sono di imitazioni, cioè il parmigiano, parmesan reggiano, le cose che imitano, scimmiottano il Made in Italy, magari con una bandiera italiana, ma sono prodotti in America, in Canada, in Gran Bretagna. Esattamente, il parmigiano è un caso, diciamo, di marchio comunitario, di DOP comunitaria, quindi perseguibile, quindi rientra, diciamo, nei 4 miliardi di contraffazione. Però moltissimi altri prodotti sono fabbricati legalmente in Canada, in Australia, ma anche in Germania, legalmente anche dai nostri immigrati tanti anni fa, e hanno stabilimenti molto importanti e scimmiottano o imitano il prodotto italiano, perdendone però gran parte di caratteristiche lungo la storia di questi prodotti all'estero. Noi riteniamo che questa sia da una parte una minaccia ovviamente per il Made in Italy, perché effettivamente si sovrappone, come lei ha detto, sono due volte e mezzo le nostre esportazioni come valore complessivo stimato, però è anche una grandissima opportunità per le nostre aziende, cioè significa che nel mondo quasi metà del nostro fatturato ci sono dei consumatori che cercano di mangiare italiano, cercano prodotti made in Italy e non li trovano. Ecco, è un peccato, perché delle volte mangiano qualcosa che ha poco o pochissimo a che vedere con Made in Italy. Non vorrei che anche in questo caso però la competizione si facesse sul prezzo, no? Esattamente, spesso si va sul prezzo, ma anche altre volte si fa effettivamente sulla piccola dimensione di impresa italiana. Cioè, molti scaffali non sono riforniti dalle nostre aziende perché proprio non riescono ad arrivare su quegli scaffali del supermercato australiano. E non potreste fare qualcosa per concludere anche voi, visto che ieri abbiamo annunciato l'operazione, appunto, se andare in porto Bauli, che creerà il polo, diciamo, dolciario nel Veronese, visto che la Nestlé è intenzionata a cedere parte del marchio, sì, Motta e Alemagna. Ma dico, non potreste spingere anche voi gli associati per almeno unire le forze quando si va all'estero? Perché è chiaro che se tu produci un formaggio tipico calabro piuttosto che un salume del nord Italia e hai produzioni limitate, non riesci a reggere i costi per andare all'estero, non riesci anche a fornire la grande distribuzione internazionale, No. Noi abbiamo tre tentativi per allargare le spalle delle nostre aziende, soprattutto all'estero. Il primo è quello di individuare delle agevolazioni fiscali, in particolare deducibilità delle spese sostenute all'estero e credito d'imposta per aiutare i nostri imprenditori. Mm-hmm. La seconda è quella di poter organizzare delle forme, come lei diceva, collettive, per andare all'estero, da consorzi a marchi collettivi ad attività vere e proprie logistiche condivise, e questa è una strada che sembra avendo abbastanza successo fra i nostri piccoli e medi imprenditori. E un'altra, che forse è la strada principe, è quella di favorire la fusione fra aziende, la concentrazione fra aziende, e lì devo dire il governo è riuscito a ottenere, ma già il governo precedente ha individuato una norma che facilita il disavanzo d'imposta quando disavanzo di fusione quando effettivamente due aziende si uniscono. Quindi sono sia profili fiscali che profili societari che profili consortili per andare all'estero che dovrebbero aiutare i nostri imprenditori. D'altra parte, il risultato dell'anno scorso, in un anno difficilissimo, un più 10% all'estero con 20 miliardi di euro di fatturato, dimostra che questi strumenti aiutano sicuramente i nostri imprenditori, certo, a crescere. Beh, in bocca al lupo al settore, come sempre facciamo quando ci occupiamo di un singolo settore produttivo, e grazie al direttore generale di Federalimentare Daniele Rossi. Grazie mille. E adesso, come sempre, la borsa, dopo il meteo e la pubblicità, borsa che ha chiuso in leggero rialzo a Milano, più 0,25%, Parigi più 0,4%, Francoforte anch'essa più 0,4%, e Londra più 0,3%, l'America guadagna uno 0,3%. Sono sedute in cui, lo diciamo ormai da qualche settimana, mancano, per fortuna in alcuni casi, anche spunti drammatici, nel senso che, o comunque degni di nota, nel senso che la maggior parte dei titoli hanno avuto variazioni tra il più 0,6% e il meno 1%, fanno eccezione Mondadori che ha perso il 2,5%, Prismian il 2,2%, Bulgari il 2%, e poi il Banco Popolare meno 1,90% come Pirelli e Saipem, mentre l'1,7% lo ha perso Mediaset e Buzzi. Unicem 1,5% lo hanno ceduto Atlantia, Enel, Telecom Italia, la Popolare di Milano e Geox. Sul fronte di chi ha guadagnato, Mediolanum più 4, Unicredito rivede, o meglio si avvicina a quota 2 euro con un rialzo del 3,6%, Lottomatica più 3,3, Ubibanca più 3,1, Fondiaria più 2%, Unipol ed Eni più 1,5%. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di tassi europei, previsioni sulla crescita economica e anche andamento di borsa. Devo rispondere a alcuni messaggi arrivati al 349-238-6666. Lo abbiamo detto che l'industria alimentare i prezzi alimentari sono spesso giudicati eccessivi dagli ascoltatori e dai consumatori. E abbiamo anche detto che forse il fatto che non vadano così male i consumi è dovuto anche alla tendenza a rinunciare per ultimi a quei consumi, non al fatto che non siano beni cari. Cosa volete che aggiungiamo? Sono un po' delle volte come parlare del prezzo del petrolio rispetto al prezzo della benzina, non sempre se ne esce. Vediamo invece di capire quale prospettiva abbia illustrato oggi la Banca Centrale Europea sull'economia dell'area euro. Riunita a Francoforte, ha lasciato infatti la Banca Centrale Europea al tasso invariato all'1% nell'area euro, decisione ampiamente attesa dal mercato e che lascia la differenza tra quanto costa il denaro in Europa e quanto costa in America intorno a un punto percentuale. La Banca Centrale Americana infatti ha azzerato il costo del denaro. La novità riguarda l'inflazione. Secondo la Banca Centrale Europea, infatti, l'inflazione nel 2009 nell'area euro arriverà ad essere negativa, quindi deflazione, meno 0,5% la stima per fine anno, con un'oscillazione tra un più 0,1 e un meno 0,5%. Nel 2010 invece dovremmo essere fuori dal rischio deflazione, con una crescita dei prezzi al consumo stimata fra lo 0,6 e l'1,4%. Sentiamo Jean-Claude Trichet, presidente della BCE, sui tassi. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il livello attuale è appropriato considerando le informazioni disponibili. Confermiamo che le nostre attese sullo sviluppo dei prezzi rimangono al ribasso a causa della debolezza dell'attività economica sia nell'area euro che a livello globale. Sul livello dei tassi di interesse posso aggiungere che li riteniamo appropriati e non ho nulla di diverso da dire rispetto a quanto affermato lo scorso maggio. Allora avevo detto che il livello dell'1% non doveva essere considerato il livello minimo dei tassi e che non potremmo mai superare questa soglia. Il tasso di inflazione era allo 0% in maggio, dallo 0,6 di aprile. Guardando in avanti, ci attendiamo un'ulteriore discesa e un temporaneo livello negativo nei prossimi mesi, prima di tornare in territorio positivo a fine 2009. Le nostre stime per il 2009 indicano un tasso di inflazione compreso fra lo 0,1% e lo 0,5%, il che significa una revisione leggermente al ribasso rispetto alle stime del marzo scorso. Riguardo al 2010, prevediamo una forchetta tra lo 0,6% e l'1,4%, livelli invariati rispetto alle nostre stime di marzo. Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. Con te parleremo anche di Fiat, così lo dico a chi ci sta chiedendo, 349-238-6666, ti sento sbuffare, non ne potrei più della vicenda Opel. Però restiamo intanto sulla Banca Centrale Europea. Vabbè, tassi invariati lo sapevamo, forse una novità maggiore è arrivata dalla stima sull'inflazione, Beda. Credo che la cosa più interessante, sì, l'inflazione, naturalmente la banca ha detto che l'inflazione sarà negativa per una parte di quest'anno, ma devo dire che l'aveva già detto e il dato di maggio lo ha per certi versi dimostrato, perché in maggio l'inflazione su base annua era stabile, quindi la banca ha confermato che ci sarà un periodo di inflazione negativa, ha ribadito che non c'è pericolo di deflazione perché si aspetta comunque una risalita dell'inflazione entro la fine dell'anno. Mm-hmm. La cosa forse più interessante è la crescita, al di là di una riduzione delle previsioni di crescita sia per quest'anno che per l'anno prossimo, addirittura per quest'anno la banca si aspetta una contrazione dell'attività del 4,5%, la cosa interessante è che Trichet oggi in conferenza stampa ha ammesso che non si tornerà a una crescita su base trimestrale se non a metà dell'anno prossimo. Allora prego. E quindi ecco, è stato abbastanza pessimista. In effetti Trichet, oltre ad aver lasciato la porta aperta a una possibile riduzione ulteriore dei tassi di interesse, ha detto infatti che i tassi, il costo del denaro all'1% non è la soglia minima, ha detto attenzione, abbiamo tagliato tutte le stime della crescita europea nel 2009 tra un meno 5,1 e un meno 4,1, una bella recessione quella del 2009, che se ne dica, e per il 2010 tra un meno 1% e un più 0,4, che vuol dire che se va nella parte migliore delle previsioni della BCE non andiamo oltre lo 0,4%. Sentiamo Trichet. Economic activity weakened considerably in the first quarter of 2009. L'attività economica si è indebolita significativamente nel corso del primo trimestre dell'anno. Gli ultimi dati indicano che il PIL nell'area euro si è contratto del 2,5% nel primo trimestre rispetto al precedente, dopo il meno 0,18% segnato negli ultimi tre mesi del 2008. Tuttavia, ci sono stati dei segnali recenti di miglioramento, anche se molto limitati. Per il resto dell'anno in corso, ci aspettiamo un'ulteriore discesa dell'attività economica, ma dopo una fase di stabilizzazione, ci attendiamo tassi di crescita positivi a metà 2010. Questo scenario è in linea con le previsioni di giugno che indicano per il 2009 un PIL compreso tra il meno 5,1% e meno 4,1% e tra meno 1% e più 0,4% nel 2010. Rispetto alle previsioni di marzo, c'è stata una revisione al ribasso, in particolare per i dati del 2009. Allora, vedo già la critica al 349-238-6666, vabbè, la banca centrale che un anno fa ha alzato i tassi, quasi un anno fa, ritenendo che l'inflazione fosse il vero problema dell'area euro, non capendo la crisi che stava per abbattersi sulle economie, Vabbè, che credibilità. Vabbè, è ovvio che le previsioni sono state sbagliate a suo tempo, ne abbiamo parlato molte volte, però prendiamo anche atto delle nuove stime. Beda Romano, una revisione a ribasso per il 2009 molto forte, tra i 2 e i 3 punti percentuali in più come calo, tra un meno 5 e un meno 4. Però mi sembra che la Banca Centrale Europea sia molto scettica anche su quando ripartirà l'economia dell'area euro, perché dire che il 2010 si chiuderà con una forchetta tra un meno 1% e un più 0,4% sembrerebbe indicare un 2010 che partirà in frenata. Sì, la BCE si aspetta una certa stabilizzazione della crescita tra la fine dell'anno di quest'anno e la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo, e un ritorno a una crescita trimestrale a metà dell'anno. Quindi sì, la prima parte dell'anno prossimo rischia di essere un'economia stabile, se non addirittura in leggera decrescita, ma tendenzialmente stabile. Adesso chiedete che venga rispolverato un animale che era un bel po' di settimane che non sentivamo, perché in effetti qui iniziano a mettere le mani avanti tutti gli organismi internazionali, non è solo la Banca Centrale Europea e l'OCSE, il Fondo Monetario. Se fino a qualche mese fa si diceva la ripresa arriverà a fine 2009 e entrerà in maniera consistente nel 2010, adesso già si dice dalla seconda metà del 2010 che comunque non sarà un 2010 in cui si partirà in netta ripresa. Allora esorcizziamo queste previsioni sperando che anche questa volta Trichet si sbagli, questa volta però per un eccesso di pessimismo. Eh sì, il gufo oggi ci voleva, niente da dire. Beda Romano, la Banca Centrale Europea ha comunque confermato che nell'ambito di programma di acquisto di tutte le obbligazioni garantite che ha diffuso, comprerà 60 miliardi di euro di titoli distribuiti nell'area euro attraverso un intervento diretto sia sul mercato primario e secondario, e questo va bene. La sensazione che tu hai avuto, diciamo, tra le righe, è di una Banca Centrale Europea che comunque ritiene che, essendosi stabilizzata la situazione, anche se in negativo, non ci sarà bisogno di nuove manovre sui tassi? Beh, oggi la banca ha usato in varie circostanze l'aggettivo appropriato, ha detto che il livello dei tassi è appropriato, ed è un aggettivo che la banca utilizza quando si sente di poter dire che per il momento i tassi dovrebbero rimanere stabili. Il segnale della banca in questo momento è di costo di denaro stabile all'1%. Certo, la banca non ha voluto prendere impegni e quindi ha lasciato la porta aperta a un eventuale nuovo ribasso, ma a questo punto dipenderà dall'andamento dell'economia, dall'andamento dell'euro, da un altro shock finanziario. Per il momento è imprevedibile questo avvenimento, quindi per ora tassi stabili, direi. Tassi stabili oggi anche in Gran Bretagna, invariati allo 0,5%, e in Canada, che restano al minimo storico, allo 0,25%. Ultima coda, ma solo perché appunto tu fai corrispondente alla Germania, e quindi cambiamo tema rispetto alla Banca Centrale Europea. Insomma, leggiamo oggi sui giornali e poi altre considerazioni di un governo tedesco che sembra avere qualche rimorso per come ha chiuso l'operazione con Opel, quindi con Magna, austro-canadese, russa, la cordata, e non con Fiat. Il governo che dice ieri siamo sempre aperti ad altri candidati, dubbi che arrivano anche dalla stessa Russia. Insomma, è un eccesso italiano voler vedere una Germania che ci ripensa, o c'è qualche elemento anche più di sostanza? Credo che la Germania stia attraversando un brutto momento politico, direi, perché siamo a 4 mesi da delicatissime elezioni federali e a 3 giorni da difficili elezioni europee, e io non posso dire con certezza, francamente, che il governo abbia dubbi, rimorsi o idee per il futuro di Opel diverse da quelle che sono state rese pubbliche sabato scorso, quando il governo ha annunciato l'accordo con Magna e con i soci russi di Magna. Evidentemente quell'accordo annunciato sabato non è stato preso bene da una parte importante dell'establishment politico tedesco e in particolare non è stato preso bene da una parte dei democristiani della signora Merkel, che hanno criticato aspramente il cancelliere. E lo hanno criticato non tanto perché ha scelto Magna invece di Fiat, ma lo hanno criticato perché secondo loro Opel andava lasciata fallire e hanno criticato la decisione del governo di dare circa 1,5 miliardi di soldi a Opel. Dal loro punto di vista Opel è una società su cui non vale la pena scommettere. Allora, credo che questa sia la ragione per cui Merkel, in un modo o nell'altro, con grande ambiguità, ha deciso così di lasciare la porta aperta a un futuro diverso per Opel. Ma oggi come oggi il futuro di Opel dipende fondamentalmente da un accordo definitivo tra la General Motors e il consorzio austro-russo-canadese guidato da Magna. Stanno trattando per un contratto definitivo. Se saranno capaci di trovare un accordo definitivo sul futuro di Opel, bene. Se invece non saranno capaci di trovare un accordo definitivo, beh, allora a quel punto la partita si riapre e il governo potrà tornare a giocare delle carte chiari e trasparenti. Sì, devo dire che oggi di nuovo sulla vicenda Opel sono intervenuti da un lato il ministro Tremonti, che ha detto, insomma, sulla vicenda Opel Fiat non ha chiesto niente al governo e il governo non poteva intervenire, ma lo stesso Tremonti ha detto la partita è tra governi ed è ancora aperta, così come gli ha fatto ecco il ministro dello sviluppo economico Scajola, che ha detto sono convinto che le carte sulla vicenda Opel siano ancora da giocare, e poi molto perplessa, per usare un eufemismo, la presidente di Confindustria Marcegaglia sulla vicenda e sulla situazione tedesca. Ne parleremo nella seconda ora del programma, perché adesso vorrei fare i mercati. Intanto ringrazio Beda Romano in collegamento con noi da Francoforte. La borsa dunque, e come sempre con Radio Cori Sole 24 Ore, Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora Livia, la giornata è stata alla fine, ha chiuso invariato l'indice FTSE MIB, invariata anche Parigi, invariata anche Londra, più 0,1, Francoforte più 0,2, hanno un po' frenato nel finale i mercati, più 0,3% in questo momento l'America. Lo ripetiamo a chi scrive, sono sedute in cui al di là di alcuni casi singoli non ci sono delle grandi indicazioni sul mercato, si guadagna un po', poi si riperde. Un mercato molto attendista, forse che si prepara alle vacanze estive, forse. Mediolanum più 4,6, l'Automatica più 3,80, Unicredito più 3,20, Ubibanca più 3,1, Fondiaria più 2%, Ansaldo più 1,20, Eni più 1,1, Unipol più 0,90. Sul fronte opposto invece, Bulgari meno 2,80, come Buzzi Unice, Pirelli meno 2,60, come Prismian e Mondadori, il 2,4 perde Banca Popolare, il 2,2 il calo di Saipem, il 2% quello della Popolare di Milano, l'1,80 quello di Enel e Mediaset, euro vicino a quota 1,42. I titoli più in evidenza oggi, abbiamo visto Unicredit e Ubibanca andare bene oggi, non tutti i bancari hanno invece chiuso in maniera positiva. No, infatti, allora, le banche a Milano hanno mostrato un andamento contrastato, mentre a livello europeo il settore ha chiuso più o meno sopra la parità con un più 0,3%. Allora, a Milano sono spiccate allora Unicredit e Ubibanca. Allora, Unicredit ha guadagnato oltre il 3% e ha rinnovato i massimi dell'anno. Allora, le azioni si trovano, a parte il calo di ieri, si trovano all'interno di un trend ascendente che ha portato il titolo a salire del 4% in tre sedute, ciò grazie anche al giudizio di Morgan Stanley, che nei giorni scorsi aveva avviato la copertura sul titolo con overweight. Per contro invece altre banche hanno chiuso in calo, come BPM, il Banco Popolare di Intesa San Paolo, e per quanto riguarda in particolare la Banca Popolare di Milano, allora oggi Credit Suisse ha avviato la copertura con giudizio neutrale, e secondo gli analisti allora l'Istituto Milanese ha una delle situazioni patrimoniali più solide nelle banche europee, ma il problema in realtà consiste nella bassa profittabilità della banca, causa anche di costi poco flessibili, e quindi secondo gli analisti le caratteristiche della banca non giustificano una maggiore valutazione delle azioni, per questo hanno dato giudizio neutrale. E questo per quello che riguarda Unicredit, volete sapere rialzi, ve li ridico, più 3,20 Unicredit, più 3% UBI, Unicredit tocca 1,97 per azione, UBI Bank 9,89 perde terreno invece appunto BPM, meno 2,40% a 5,52 Vorrei capire invece che cosa è successo su Fondiaria Sai, perché è un titolo di cui non parliamo spessissimo, ma ha guadagnato il 2% oggi. Sì, allora in realtà oggi i titoli del comparto assicurativo hanno chiuso poi in rialzo a Milano, infatti a parte Fonsai anche Unipol ha segnato più 0,91%, allora, e Mediolanum vabbè più 4,66%. Allora, per quanto riguarda Fonsai e tutto il settore assicurativo, oggi la banca d'affari Chevro ha pubblicato un report in cui ha manifestato un maggior ottimismo sul comparto assicurativo italiano e ha alzato le stime di utili per azione 2009 del 10%, mentre le previsioni di utili per azione 2010-2011 sono state incrementate del 7%. A livello di singoli titoli, in realtà gli analisti hanno ribadito un giudizio underperform su Fonsai, però hanno alzato il prezzo obiettivo a 12,9 euro, e secondo Chevro appunto il titolo preferito è Fonsai rispetto a Unipol, perché Unipol potrebbe riportare delle notizie non positive legate all'attività bancaria e appunto giudizi positivi sul comparto potrebbero aver aiutato oggi, sì, il rialzo dei titoli. Noto che con così il calmarsi del panico, del dramma sui mercati finanziari, rispuntano anche gli analisti con le previsioni, underperform, andrà peggio delle attese o no. Sì, io invito sempre la cautela sulle previsioni degli analisti, ma di tutti, non nel caso specifico di qualcuno. Ultimo settore, abbiamo visto Mondadori e Mediaset perdere, cali significativi, il settore editoriale mi sembra a soffrire per le previsioni, anche devo dire oggi male, tutti i titoli legati all'editoria, dico, a soffrire per le previsioni sulla raccolta pubblicitaria, immagino. Sì, allora in realtà sì, le previsioni sulla raccolta pubblicitaria comunque non sono delle migliori, in realtà però bisogna sottolineare che per quanto riguarda Piazza Affari, in realtà oggi sono stati più colpiti quei titoli che nei giorni scorsi, a parte forse ieri, avevano guadagnato di più, come capita appunto in un momento in cui la cautela prevale, quindi gli investitori magari dopo giorni di rialzo preferiscono incassare, passare all'incasso. Per quanto riguarda Mondadori, allora nelle ultime tre sedute il titolo aveva guadagnato il 5% e le azioni in realtà avevano iniziato a salire dopo aver ceduto più o meno il 4,7% dal 22 maggio, quando erano state penalizzate anche da un giudizio negativo da parte di alcuni analisti. È andata male anche Mediaset oggi. Intanto ieri sono arrivate appunto le notizie negative sul comparto media anche in Francia, con Bouygues che controlla TF1, che ha rivisto la redditività, sì, frenare bruscamente nel primo trimestre. Stefanelli, miglior titolo più 15%, Uniland più 12%, e il peggior titolo invece Molecular Medicine meno 8,3%, e poi poco altro, investimenti e sviluppo che perde il 5%. Grazie a Livia Zancanera, Radio Corriere sulle 24 ore. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, volete sapere, mi riferisco chiaramente agli sms arrivati al 349-238-6666, perché sui BTP ci sia stato, quindi il mercato obbligazionario, c'è stato un calo? Beh, perché da quello che si è letto, le attese, o perlomeno il mercato delle obbligazioni, dopo le parole che abbiamo anche ascoltato del Presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, le ha interpretate come la fine, diciamo, della riduzione dei tassi di interesse, si è mosso di conseguenza la fine anche della corsa al bene rifugio, il che non vuol dire che la crisi sia alle spalle, magari, però il problema è che, o il punto secondo i mercati obbligazionari, è che dopo le parole di oggi il tono non è stato ottimista, ma è stato quello che indica, insomma, una stabilizzazione, il fondo toccato, per cui l'emergenza sulle obbligazioni, e le BTP sono un classico investimento rifugio, va via via attenuandosi. Ecco il perché delle perdite diffuse sui BTP. Dicevamo, volete anche sapere della vicenda Opel e Merkel, Opel, Angela Merkel, i dubbi di una parte dei cristiano-democratici sull'accordo di massima raggiunto con la cordata austro-russo-canadese. Abbiamo raccontato anche alcune dichiarazioni uscite oggi proprio in merito alla vicenda Opel, dopo i dubbi, più che dubbi, la porta aperta lasciata ieri dal cancelliere Angela Merkel, le perplessità della presidente di Confindustria Emma Arcegaglia, al microfono del nostro Luigi Capuano. Secondo me la politica dovrebbe semplicemente valutare la bontà dei piani industriali e non dovrebbe invece far valere logiche elettorali o logiche di rapporti tra stati per altri motivi legati al gas o all'energia. Anche perché appunto altrimenti si rischia di fare pasticci come sta succedendo e si rischia poi di far pagare il prezzo di un mancato consolidamento, di una mancata ristrutturazione ai cittadini e alle imprese europee. Quindi io credo che gli stati dovrebbero stare da parte, delimitare i campi e le regole del gioco e poi far giocare le imprese, far giocare quindi le valutazioni sui piani industriali che sono poi quelle che contano. Insomma, questa situazione tedesca è un po', lascia un po' perplessi, no? La Germania, che è sempre stata l'esempio, no? Di solidità, di attenzione. Il fatto che, insomma, prevalgano queste logiche fa un po' impressione, e poiché poi ci saranno elezioni a settembre, il rischio vero è che da qui a settembre un po' tutta la politica europea, economica e non solo, possa essere in qualche modo influenzata da questa situazione. Quindi, secondo me, gli stati non devono fare nulla, cioè devono delimitare il campo e poi lasciare che siano i piani industriali a valutare, a far sì che, insomma, prevalgano quelli, le valutazioni su queste. Così la presidente di Confindustria. Devo dire che c'è chi ha scritto in questi giorni in merito alla vicenda Fiat Opel e le posizioni del governo tedesco, che la Germania si è mossa con delle caratteristiche un po' italiane, cioè ha prevalso la logica politica, elettorale, a breve termine, di breve respiro, piuttosto che la logica industriale. Addirittura alcuni quotidiani in Germania hanno scritto di italianizzazione della politica industriale tedesca. Staremo a vedere. Certo è che la variabile elettorale è stata quella più presente nella scelta del governo tedesco sui partner possibili per Open. Volete sapere del petrolio? Ribadisco, a $68 al barile il petrolio, con una previsione, purtroppo lo devo confermare, dell'OPEC, che entro fine anno il barile arriverà a tra i 70 e i 75 dollari. Questo è anche uno dei motivi per cui i titoli energetici oggi in borsa sono cresciuti, nel caso specifico Eni più 1,1%. Alcuni di voi puntano l'indice poi sui dati che dovranno uscire domani dagli Stati Uniti. C'è un dato molto atteso, quello sulla disoccupazione. Le prime stime indicherebbero una disoccupazione che, seppur in leggero rallentamento, continua a, quindi un'economia americana che, seppur in leggero miglioramento, continua a produrre disoccupati, e nell'ordine di 525.000 disoccupati al mese, e che porterebbe il tasso di disoccupazione, se confermato domani, al 9,2%, sia il livello più alto da 20 anni a questa parte negli Stati Uniti. È chiaro che il dato di domani sarà molto significativo anche per le borse. Ecco perché abbiamo ricordato che in questo scenario il colosso americano della distribuzione Walmart ha annunciato oggi oltre 22.000 nuove assunzioni in America nel corso del 2009, dopo le 33.800 assunzioni realizzate nel 2008. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, ci occuperemo invece di un tema che molti di voi ci hanno sottoposto. L'Enel ha annunciato, e ne abbiamo ampiamente già parlato, un aumento di capitale importante per non dire imponente, 8 miliardi di euro. Aumento di capitale che è partito lo scorso 1 giugno, quindi lunedì, e che si concluderà venerdì 19 giugno. Ultima parte di Focus Economia, dicevamo dell'aumento di capitale Enel. Al di là del fatto che oggi il titolo abbia perso in borsa, ma il calo non è significativo giorno su giorno, però è un altro, per quello che riguarda il titolo Enel, un altro 1,7% in meno a 3,6 euro per azione. Il mercato ha reagito, e lo abbiamo raccontato in maniera un po' così scettica, quando ha capito i dettagli dell'operazione, dell'aumento di capitale di Enel. Che cosa è successo? Enel la conoscete tutti, tra l'altro è la seconda, il secondo gruppo europeo nell'elettricità dopo la francese EDF. Il 31% appartiene ancora al Ministero dell'Economia, capitalizza 23 miliardi di euro e vabbè, è un giro d'affari di 61 miliardi e 85 mila dipendenti. Il 2008 è andato molto bene, utili in aumento del 33% pari a 5 miliardi e 3, e bene è andato anche l'inizio del 2009 con una trimestrale nei primi tre mesi più 100% i profitti a quasi 2 miliardi di euro. Perché allora Enel ha bisogno di soldi, l'aumento di capitale serve infatti a reperire soldi sul mercato, perché nel 2007 ha comprato la spagnola Endesa, corrispettivo spagnolo di Enel, l'ha pagata. L'operazione vale 40 miliardi e questa operazione ha portato il debito a 61 miliardi. E da lì la necessità di trovare capitali per abbassare il peso del debito. Dottor Luigi Ferraris, direttore dell'amministrazione, pianificazione e controllo del gruppo Enel, buonasera. Buonasera a lei. Attualmente lei è negli Stati Uniti per il roadshow, sia la presentazione di questo aumento di capitale. Il racconto fin qui va bene, eh? Beh, direi, mi sembra che abbia detto correttamente tutto. Beh, quindi l'ho ascoltato con attenzione. Ecco, adesso andiamo avanti perché vorrei capire invece la parte più delicata. Voi avete chiesto 8 miliardi di euro. I termini dell'aumento prevedono 13 nuove azioni ogni 25 già possedute, quindi la valutate circa 2,40 euro ad azione, con uno sconto del, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo che le azioni dovrebbero raggiungere ad aumento concluso. Come si svilupperà e si sta sviluppando l'operazione? Beh, direi adesso, come lei ha detto, io sono negli Stati Uniti, sono a Boston, stiamo appunto facendo un roadshow per incontrare investitori finanziari. Ricordo che la nostra azienda è caratterizzata da un 30% di investitori istituzionali come rappresentanti del nostro azionariato, il restante 30% nelle mani di investitori retail. Quindi questa quota di investitori finanziari che sono sia in Europa che negli Stati Uniti è importante, come lo è la parte retail, e noi in questo momento siamo qui appunto negli Stati Uniti a raccontare la nostra equity story. Mi sembra che i primi incontri stiano andando molto bene, c'è interesse, c'è grande attenzione, e direi che la strategia portata avanti, come ci diceva lei all'inizio, attraverso l'acquisizione di Endesa, che è quella che ha determinato poi l'aumento del debito, attraverso questo piano di emissioni di capitale e di cessioni, dovrebbe poi riequilibrarsi e ritornare su livelli più che fisiologici. L'operazione comporterà l'emissione fino ad un massimo di 3 miliardi di azioni, ho capito bene? 3 miliardi e 2. È corretto, 3 miliardi e 2, quindi il numero totale complessivo di azioni raggiungerà i 9,4 miliardi circa. Mi scusi, perché avete coinvolto un numero di banche molto elevato nell'operazione? 36 banche in tutto. Tra l'altro è stato calcolato che le commissioni che pagherete a queste 36 banche potrebbero arrivare a 180 milioni di euro. Il numero notevole di banche deriva dal fatto che abbiamo un azionariato molto diffuso. E molto anche disperso, mi faccio dire, anche geograficamente. Abbiamo 1.300.000 piccoli azionisti rappresentati appunto da famiglie, da cittadini italiani che risiedono in quasi tutta la parte d'Italia, quindi il titolo Enel è stato acquistato un po' in tutte le regioni, quindi è evidente che per accompagnare questo aumento di capitale è necessario avere anche il contributo di banche che fossero vicini al singolo risparmiatore. Questo è un elemento chiave. Lei immagina appunto che stiamo parlando di azionisti che hanno in media in portafoglio 600-700 azioni, quindi è evidente che c'è una grossa parcializzazione che richiedeva attenzione e che per la quale ci appunto stiamo dedicando attenzione attraverso il contributo di questo consorzio di banche. Per quanto riguarda poi la parte anche componenti banche estere, come dicevo prima, abbiamo una presenza di direi un panorama di investitori finanziari che è presente sia in Nord America che in Europa, come dicevo prima. Allora, le giro qualche domanda degli ascoltatori che scrivono a 349-238-6666. Alcuni chiedono, ma insomma, se invece che aderire adesso all'aumento di capitale aspettassi la fine dell'aumento di capitale, divento azionista in un altro momento a livelli di prezzi a questo punto stabilizzati. Io credo che ancora adesso entrare rappresenti, quindi acquistando i diritti per chi non è azionista, ci sia comunque un'opportunità, un piccolo vantaggio, quindi un maggior sconto, se vogliamo, rispetto a quello che potrà essere poi il livello del valore del titolo una volta completato l'aumento. Quindi sicuramente credo che questo è anche un momento molto, molto buono per entrare anche per chi non è ancora azionista nostro. Mi faccia capire un'altra cosa, mi scusi, perché secondo lei, perché ho capito l'analisi più tecnica, ma perché secondo lei la borsa ha penalizzato molto Enel quando ha saputo i dettagli dell'aumento di capitale? Voglio dire, era noto che l'operazione Endesa era costata tanto sul mercato e quindi avreste dovuto ridurre l'indebitamento, così come è noto che voi, lo dico senza nessun timore di essere smentito, siete un gruppo lavorando in un settore come quello energetico che non ha i problemi, diciamo, dei gruppi bancari o di altri gruppi industriali, no? Ma certamente sì. Adesso, se lei si riferisce al fatto che in queste ore, come dire, il titolo sta evidenziando una diminuzione, così come il valore dei diritti, direi che questo rientra perfettamente in quella che è una evoluzione tecnica da parte di alcuni operatori. Quindi normalmente quello che accade, che peraltro è accaduto anche in altri aumenti di capitale analoghi al nostro, nella prima settimana di trattazione si vede un calo, un progressivo allineamento e assestamento dei valori a quello che sarà poi il valore di emissione finale, tenuto conto anche del valore dei diritti d'opzione. Quindi ci dovremo aspettare questa settimana un andamento di questo genere e ragionevolmente la settimana prossima ritornare sulla normalità. Quindi non credo che ci sia un tema di giudizio sull'operazione, ma è semplicemente una naturale evoluzione tecnica che stiamo osservando e che non ci preoccupa assolutamente. L'operazione si concluderà venerdì 19 giugno. Quando è che voi, diciamo, immaginate di poter avere un giudizio sulle sottoscrizioni? Voglio dire, lo dico a chi scrive, l'aumento di capitale funziona che uno un gruppo quotato, o anche non quotato, ma insomma, quotato in questo caso, chiede agli azionisti o a chi vuol diventare azionista, ma insomma, di sottoscrivere nuove azioni, quindi aumentare il capitale di Enel, mettere dentro dei soldi in modo da ridurre in questo caso anche il debito. Gli aumenti di capitale si fanno o perché uno ha bisogno di soldi per comprare un gruppo, come nel caso vostro con Endesa, o perché uno ha avuto delle perdite per cui deve ripianare il capitale che si è bruciato. Dicevo, quando è che voi potreste avere un'idea di come stanno andando le sottoscrizioni, cioè che l'aumento va a buon fine? Beh, io credo, appunto, come diceva lei, il 19 si chiude questa fase, quindi immediatamente a ridosso di questa scadenza avremo evidenza di come è andato l'aumento di capitale. Evidentemente in questi giorni stiamo, come si dice, incontrando investitori e riscontriamo già fin d'ora, direi, un elevato livello di interesse nei nostri confronti, anche tenuto conto delle richieste di chiarimento eccetera che viene dal mondo retail. Abbiamo creato un call center ad hoc per rispondere alle domande dei piccoli azionisti in Enel. Beh, le posso assicurare che in questi giorni il livello di telefonate e di domande è salito in maniera esponenziale, il che vuol dire che c'è un interesse crescente e che ci fa ben sperare per una conclusione positiva di tutta l'operazione. Dottor Ferrari, su un'ultima domanda che ci arriva sempre dagli ascoltatori, però se avete un debito che è aumentato per l'operazione Endesa, perché non avete deciso di, o non pensate a ridurre un po' la distribuzione dell'utile, quindi i dividendi, e invece che chiedere l'aumento di capitale. Cioè, uno può anche tenere parte degli utili in casa e buttarli dentro per ridurre l'indebitamento. So che questa cosa non farebbe piacere né agli azionisti Enel né al Ministero del Tesoro, perché è al 30%, quindi immaginiamo che anche il Ministero dell'Economia non gradirebbe, però insomma volevo capire. Comunque abbiamo già fatto un'azione in tal senso, nel senso che se noi confrontiamo quella che è la nostra dividend policy fino al 31/12/2008, la quale si basava su un pagamento di dividendo di 49 centesimi di euro flat per anno, è stata rivista oggi con una policy che prevede un 60% del dividendo ordinario del gruppo. Ora, dell'utile netto, scusi, del gruppo. Ora, se lei prende a riferimento il valore che abbiamo comunicato come utile netto atteso per l'anno 2010, pari a circa 4 miliardi di euro, il 60% di 4 miliardi di euro vuol dire 2 miliardi e 4, e si confronta con un totale sborso relativo all'anno 2008 pari a 3.1 miliardi di euro, quindi già qui abbiamo adottato una riduzione, mantenendo comunque, come dire, un livello di remunerazione dei nostri azionisti tra le best in class in assoluto nel nostro settore. Quindi tra le società quotate che hanno distribuito il maggior tra i maggiori dividendi in rapporto all'utile realizzato. Grazie e in bocca al lupo anche a lei, a Luigi Ferraris, direttore amministrazione, pianificazione e controllo del gruppo Enel, attualmente negli Stati Uniti, dove appunto i vertici dell'Enel sono a presentare agli investitori l'aumento di capitale. Veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi in ascolto di una buona serata. Il programma ritorna domani dalle 17 in poi.